Italia in controluce. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchesi, ritornato dopo alcuni giorni di assenza. Oggi 30 gennaio, Italia in controluce, lo scandalo MPS Monte dei Paschi di Siena, almeno 10 volte più grande di Parmalat, secondo noi. Gianluca Baldassarre e Matteo Pontone, che erano capo della finanza di MPS e responsabile della filiale di Londra, sempre della stessa banca, erano conosciuti come la banda del 5%. Questa rivelazione, che era già stata anticipata da Radio 24, dalla nostra Raffaella Calandra, che qui con me viene, giunge da Antonio Rizzo, che di professione era l'ex funzionario di una banca d'affari tedesca, che era stato sentito dai pubblici ministeri di Milano. Se fossero veri gli indizi investigativi, questo scandalo potrebbe forse diventare almeno 10 volte più grande di quello di Parmalat. È vero, Micuzzi, Angelo del Sole 24 Ore, che aveva seguito, lo ricordo, per il Sole 24 Ore lo scandalo Parmalat, perché può diventare più grande? Buongiorno innanzitutto a tutti. È uno scandalo, diciamo, che ha dimensioni diverse, caratteristiche diverse, perché in questo caso si parla di una banca, mentre lo scandalo Parmalat riguardava un'azienda essenzialmente di alimentari, un grosso gruppo, una grande multinazionale. Lì ci fu un buco di 14 miliardi di euro, che inizialmente, insomma, non era così conclamato, ma insomma ci si arrivò poi col passare delle settimane ad appurare che c'era un buco così grande. Lo scandalo MPS, come dire, ha dei confini che ancora non sono stati delineati, perché ciò che è trapelato finora dalle indagini, insomma, è solo una piccola parte di ciò che i magistrati sanno, di ciò che i magistrati hanno fatto. Qui si parla di un'operazione molto grande, che, diciamo, sarebbe la madre di tutta questa indagine, che è l'acquisizione di Antonveneta a un prezzo di 10 miliardi di euro, e si ipotizza una maxi tangente di 2 miliardi di euro. Ecco, se ci sia stata o no, questo ancora non è appurato completamente, ma i magistrati e la Guardia di Finanza stanno lavorando proprio su questo, quindi è uno scandalo che potrebbe avere dimensioni colossali. Dimensioni colossali. Grazie ad Angelo Micuzzi. Cosa pensate voi di questo scandalo? E soprattutto dal punto di vista politico, il Partito Democratico, che aveva contatti storici con MPS, secondo voi ha responsabilità politiche in questo scandalo? E vi ricordo il nostro numero, che è 349-238-6666, per i vostri sms. Allora, Raffaella Calandra qui in studio, ricostruiamo un po' questa banda del 5%, che in realtà non voleva il 5%, voleva lo 0,5% sulle trattative. Questo dovremmo ricordarlo, forse un po' meglio. Questa è innanzitutto una dichiarazione che fa appunto un ex manager della Dresdner Bank ai magistrati di Milano, ed è un quello perché è importante questa dichiarazione. È importante perché l'ha fatta a verbale all'interno di un'inchiesta che riguarda una società di mediazione svizzera che si chiama la Lutifin, che aveva fatto da mediatore tra MPS e la Dresdner Bank. Ed è importante perché sembra aver ricostruito quello che per gli inquirenti è un sistema Siena, ed è su questo che ora lavorano, perché, come ricordava prima Angelo Micuzzi, se in qualche modo si è partiti da lavorare da quello che è stato l'indagine Antonveneta, l'acquisto per 10 miliardi di Antonveneta, ora bisogna capire come, che cosa è successo subito dopo e qual era la situazione all'interno di MPS, perché insomma si è arrivati ad operazioni di ingegneria finanziaria, come sono state definite, quali i discussi appunto derivati Alexandria, Santorini e Nota Italia. Allora, qual è il punto dell'indagine in questo momento? È che ci sono delle tracce dei bonifici per 8 miliardi all'estero trovate, ci sono i soldi per circa 20 milioni che sono stati individuati sui conti di Gianluca Baldassarre, ma in questo momento l'indagine ha fatto un salto in avanti perché ci sono anche i super testimoni, ed è per questo che si vocifera di nuove svolte, anche se il quadro è molto delicato. stato esplosivo, ha detto ieri il procuratore di Siena. In questo momento, infatti, sul tavolo dei magistrati ci sono pagine e pagine di verbali riempito dall'ex segretario del Consiglio di Amministrazione di Rocca Salimbeni, Valentino Fanti, che sta raccontando i meccanismi e il retroscena di quanto avveniva all'interno di quel settore clou della banca, ossia l'area finanza, che era guidata proprio da Gianluca Baldassarri, l'uomo che appunto veniva indicato in questo verbale di cui tu parlavi come appunto il capo di questa banda del 5% dalla percentuale di commissioni indebite che prendevano su ogni operazione. Ma in questo momento io sono in grado di aggiungervi anche un altro elemento, perché da quella stessa inchiesta Lutifin emerge anche una rogatoria che arrivava da Monte Carlo, ed è ebbene sempre dai verbali di questa stessa fonte, di questo ex dipendente di Dresdner, scrivono i magistrati che riferiva che l'istituto di credito in questione, ossia la Dresdner Bank, pagava delle commissioni ad un'altra società irlandese, la Silver Castle, riconducibile a Clementi, Lionello, Giuseppe, al fine di acquistare crediti sanitari, ma riferiva che l'unico ruolo della banca era quello di pagare, leggo testualmente, la mazzetta, e che Dresdner Bank pagava Silver Castle e poi Clementi girava tutto o in parte il denaro a vari soggetti. Questo per dire che queste dichiarazioni acquisite ieri, quindi dopo che le abbiamo tirate fuori anche noi in media, acquisite ieri dalla Procura di Siena, sembrano essere lo scenario di un sistema che non si sa ancora fino a che punto potrà portare. Allora, facciamo un passo indietro e ascoltiamo una tua intervista. Lo strumento è pericoloso da usare. Ma l'intervista al sostituto procuratore della Repubblica di Milano, Robledo, sull'utilizzo dei derivati nel nostro paese. Prodotti. Di fatto oggi si persegue esclusivamente il lucro da parte degli enti finanziari che li adoperano, in assenza di qualunque disegno di verifica di impatto sociale. L'uso spregiudicato consente certamente l'arricchimento enorme di pochissimi, ma anche il danno di tutti. Questo caso può in qualche modo portare ad invertire i rapporti tra enti pubblici e banche, nel senso che dopo questa sentenza gli istituti di credito sono anche stati condannati a non avere per un tot di tempo dei rapporti, di stipulare contratti con l'ente pubblico, con la pubblica amministrazione. Secondo me, se questo di Milano rimane un caso isolato, certo non modificherà i comportamenti degli istituti bancari. Durante le indagini voi avete avuto collaborazioni dalle banche? Nessuna, ma d'altra parte le banche sono imputate, no? Quello che a me preoccupa, e l'ho detto in aula peraltro, è il significato di questo comportamento nei rapporti con la pubblica amministrazione. Le banche non hanno mai voluto fornire nessuna documentazione, hanno posto dighe insormontabili, voglio dire, su questi affari per i quali era sotto processo, pur raffermandone la liceità. Che era un po' in contrasto, diciamo. Hanno dato una prova di opacità, secondo me, significativa. La collettività, a mio giudizio, non può accettare che nei confronti di enti territoriali le banche debbano avere comportamenti privi di trasparenza, non verificabili, un po' nascondendosi, un po' come le seppie quando secernono un liquido oscuro. Insomma, questo per me non può essere tollerato. Procuratore, nel processo è stato più volte sottolineato come al fianco degli enti pubblici, nello specifico del Comune di Milano, non ci fosse un vero tecnico esperto. Se ci fosse stato, le cose sarebbero andate diversamente. E poi voi avete un'idea del perché? Perché non è soltanto Milano, mi sembra di capire, anche negli altri procedimenti non mi pare che ci siano stati dei tecnici accanto agli enti pubblici nel momento in cui hanno sottoscritto questi contratti, è così? Se Milano avesse avuto un esperto, io sono convintissimo che non avrebbe mai stipulato questo contratto nei termini in cui l'ho stipulato. Perché? Perché abbiamo intervistato Raffaella e abbiamo rimandato questa intervista a Robledo? Perché ho avuto una storica sentenza di condanna di quattro colossi bancari proprio per la truffa ai derivati al Comune di Milano, e quindi in qualche modo ha aperto il faro su tutto il rapporto e l'utilizzo dei derivati. Allora veniamo ai vostri sms. Il PD ha delle responsabilità, dice Aldo da Verona, ma l'ex sindaco di Siena, anche egli del PD, ha merito di essersi opposto ed è stato fatto fuori. Sono un elettrice del PD, dice Anna, sono molto amareggiato accusate, spero che non abbiano preso tangenti e poi verranno accusati di qualunquismo, di grillismo. Rivoluzione, ancora una volta la casta rimarrà impunita, dice Andrea da Macerata. Speriamo che non ci siano implicate altre banche italiane, se no poveri noi risparmiatori, dice Roberto da Alessandria. La denuncia del manager della banca tedesca del 2008, nel frattempo i giudici che cosa facevano, dove erano? Lo chieda la Calandra, dice, è un tal, l'abbiamo... Il PM Roberto Pellicano sta per chiedere il rinvio a giudizio di 18 persone e gli atti da Milano sono stati mandati a Siena. Benissimo, e un altro ascoltatore dice Roberto, il PD ha molte responsabilità, se come tutti i partiti, se fosse successo a Mediolanum sarebbe stato il finimondo. Questi sono i vostri sms al 349-238-6666. Domani ritorniamo nuovamente puntuali, Italia in controluce.